Sherlock Holmes and the Family Feud. E allora, dopo sentito che roba, andiamo con la sigla di impatto e poi con la scaletta. Popolo, ma che a te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartè Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa! E quindi andiamo a dare la scaletta di questo lunedì 23 dicembre, insomma l'ultima puntata di Impatto prima del Santo Natale, e torniamo a parlare come primo argomento dell'incontro che si è tenuto alla Regione Lazio il 13 dicembre su questo nuovo documento della Confservizi Lazio che dovrebbe dettare le linee guida del prossimo piano rifiuti. In seguito ospiteremo una corrispondenza sullo scandalo che è venuto fuori a Marino sull'utilizzo di fondi IMSS per entrare all'interno della speculazione edilizia della zona del Divinamore. Dopodiché ci faremo una chiacchierata sullo smog e questo allarme smog romano di questi ultimi giorni. E infine, come ultimo argomento, come chicca finale, torneremo a parlare di grandi opere, green economy, eccetera. Grandi opere incompiute, che sotto Natale, insomma, è sempre un bel regalo prendere i soldi e poi magari non portare a compimento l'opera. Sì, poi ricordiamo che, dato che un paio di settimane fa degli studenti alla Sapienza sono stati picchiati durante un convegno per la green economy e in seguito giornali e grandi professori esimi si sono spesi denunciando la violenza di questi degli studenti che si opponevano per alcun motivo intellegibile a questa fantastica soluzione che è la green economy, magari sarebbe il caso anche di entrare a parlare di questo argomento e capire un attimo che affari si muovono dietro. You feel it, y'all. Get down, y'all. Get down. Get up, y'all. When you get down. E allora in onda comincia la trasmissione odierna di Impatto. E cominciamo appunto continuando un approfondimento su sulle risultanze del documento che è apparso lo scorso venerdì 13 dicembre, che è stato distribuito alla Regione Lazio dall'associazione di aziende che lavorano nel settore dello raccolta e smaltimento rifiuti, Confservizi, che pare proprio debba diventare, debba trasformarsi nel futuro piano regionale dei rifiuti. Quindi le aziende dettano le linee guida da intraprendere alle amministrazioni pubbliche rispetto alle politiche e gli investimenti nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, perché insomma parliamo anche della raccolta, non solo delle discariche e degli inceneritori, e non è un aspetto secondario, visto che la raccolta differenziata come strumento per diminuire la quantità di immondizia è proprio da questo documento una delle principali note dolenti, che speriamo vivamente la Regione Lazio non accolga dentro il suo percorso politico, visto che la Confservizi chiede esplicitamente una proroga al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, almeno per la Regione Lazio, nel 2020. Sì, poi bisogna anche vedere, insomma, che 7 anni non sono pochi. No, non sono pochi, e bisogna anche vedere di che tipo di raccolta differenziata si parla. Infatti sembra strano, ma a fronte di un aumento della raccolta differenziata invece si prevede un aumento dell'utilizzo degli inceneritori, quindi un aumento delle linee, con il raddoppio di Malagrotta, che ricordiamo è attualmente fermo dopo aver bollito un giorno di circa un anno e mezzo fa, e ancora non ci è dato sapere che cosa sia successo all'interno di quell'impianto, e anche un'aggiunta di un'altra linea all'inceneritore di San Vittore. Quindi si porterebbe la capacità totale di incenerimento a 700.000 tonnellate annue, ben oltre la capacità della Regione Lazio di produrre CDR. E viene anche fuori che gli impianti di TMB, al netto della produzione di CDR, producono un 50% di scarti. Quindi quello che entra all'interno, la mondezza indifferenziata che entra all'interno di questi impianti, è per 50% una piccola un 50% composto da una piccola frazione di vetro e metallo che viene recuperato, per la gran parte CDR, e per il resto l'altra metà sono scarti, quindi fosso, quindi materiale da conferire in discarica. Sì, materiali da conferire in discarica o alle brutte, per noi almeno, materiali da conferire in una nuova generazione di impianti, sempre pensati per recepire gli incentivi alla produzione di energia elettrica. E su questo documento di impianti segnati, nominati, ce ne sono veramente tanti, sparsi per tutta la regione e soprattutto nelle province limitrofe a Roma, perché insomma nella città di Roma è presente solo un impianto, il più grande come capacità, ma soltanto uno. Gli altri impianti sono dislocati in tutte le altre province della regione, e parliamo di un bel po' di progetti, alcuni purtroppo già avviati, altri invece ancora in fase di autorizzazione. E alcuni di questi progetti nel corso di questi anni li abbiamo incrociati, le mobilitazioni delle popolazioni sono anche riusciti temporaneamente a stoppare questo filone industriale che sta sempre più prendendo piede. Però da questo documento è chiaro che questo filone industriale si cercherà di rilanciarlo al massimo. Abbiamo raccontato come per esempio nel quadrante di Guidonia ben 2 impianti sono stati bloccati e la loro iter di approvazione è tuttora fermo, però per dire nella provincia di Latina ad Aprilia ne è già stato costruito uno e il secondo è già insomma pronto a partire il cantiere, e quindi è evidente dalla lunga lista di impianti che avremo grossissimi problemi, perché poi questi impianti sono da posizionare in comuni che hanno un elevato estensione di territorio spesso agricolo, e abbiamo già detto che il digestato degli impianti a biogas, quelli che dovrebbero raccogliere questi scarti, viene spacciato come compost di qualità, in realtà è una porcheria che non farebbe altro che contaminare i terreni agricoli in maniera quasi irreversibile, e quindi insomma un motivo di forte allarme proprio per il gran numero di impianti nominati in questo documento e appunto proprio la volontà di riprendere in mano questo filone industriale che a tutti gli effetti fa parte della cordata cosiddetta della green economy. E un altro dettaglio veramente importante è quello delle discariche. Infatti attraverso questo documento siamo venuti a conoscenza del fatto che il decreto Clini, che ricordiamo uscito a gennaio dell'anno scorso, prevedeva che la Mondezza di Roma venisse trattata nei TMB della provincia, ma che poi dovesse rientrare a Malagrotta, dopo il primo ottobre, cioè dopo la chiusura di Malagrotta, non si sapeva più bene che fine avesse fatto questa Mondezza, e a quanto pare, leggendo le tabelle dell'utilizzo delle discariche della provincia di Roma, veniamo a conoscenza del fatto che la Mondezza romana non veniva solamente trattata e portata fuori regione, ma anche andava a fare bella mostra di sé nelle discariche della provincia. Quindi ad esempio sappiamo che la discarica dei Castelli Romani è già piena per metà per via della Mondezza romana. Sì, una capacità di 500.000 tonnellate da distribuire in 8 anni per le stime del bacino di competenza. In realtà l'invaso, il settimo invaso, è già pieno per metà, circa 250.000 tonnellate, proprio a causa del sovrastoccaggio permesso dal decreto Clini in relazione ai rifiuti di Roma. E guardando bene i numeretti, praticamente quasi tutta l'immondizia di Roma alla fine è stata stoccata dentro la discarica di Roncigliano, e l'estate che è trascorsa non a caso è stata un'estate infernale per le popolazioni che risiedono intorno alla discarica di Roncigliano. Ma insomma, di queste notizie infernali ne abbiamo raccolte un po' su tutto il territorio, settimane per settimane, e la situazione è veramente infernale e continua a tutt'oggi una presenza e una fortissima emanazione di odori molesti proprio dalla discarica, anche con il freddo dell'inverno. Quindi noi ci siamo chiesti perché, se un decreto ministeriale prevedeva un certo tipo di flussi, qua si va a fare un po' come cavolo ci pare. La risposta è semplicemente che il nostro simpatico Sottile, il commissario straordinario ai rifiuti, ha ricevuto verso fine settembre dei superpoteri speciali che più o meno gli permettono di fare il cavolo che gli pare, sì, anche volendo spiccare il volo. E purtroppo Sottile non ha spiccato il volo, ma è rimasto ai noi nelle nostre terre, e ha tirato fuori subito, appena rinominato da un'altra persona nominata di continuo, che era Clini, che non è mai stata eletta ma sempre nominata, che attualmente credo che sia ancora al ministero costui. Sì, l'ultima nomina in realtà l'ha fatta Orlando per i super poteri di Sottile. Sì, anche se sappiamo bene dentro il ministero chi è che comanda più o meno. Comunque sia, questo, ci siamo rimediati un documento di Sottile che ci spiega bene come funzionano i flussi. Ci racconta che Roma produce 4.500 tonnellate giornaliere di mondezza, e che queste 4.500 tonnellate vengono conferite per lo più fuori regione, per il resto si utilizzano i TMB di Albano e Viterbo. Albano e Viterbo che però dal 1 ottobre stanno conferendo proprio nelle proprie discariche di servizio, quindi arrivando a sovraccaricarle e provocando le puzze orripilanti che sono appunto scoppiate verso ottobre-novembre. Una cosa della quale la cittadinanza non era assolutamente stata avvertita, e che purtroppo invece c'è raccontata tranquillamente in questo documento. Quindi sappiamo che Albano riceve 75 tonnellate al giorno, mentre Viterbo 45, E questi quantitativi, pare, a quanto dice Sottile, potrebbero essere assorbiti dalla discarica di Cupinoro a Bracciano, quindi 100 tonnellate al giorno, e quindi non è un caso che si stiano facendo tutti questi lavori per il raddoppio della discarica di Cupinoro, si stiano scavando le fondamenta di un'altra enorme piramide che verrà fuori là, nonostante invece il comune di Bracciano neghi tutto e nicchi e faccia le sue riunioni con Legambiente e con Zero Waste raccontando fregnacce alla popolazione. Comunque Sottile annunciava a ottobre che sarebbe stato necessario attivare la possibilità di abbancare parte degli scarti dei TMB di Albano e Viterbo anche nella discarica della Falcognana, cosa che per fortuna è andata piuttosto a carte 48. Sì, è andata fortunatamente. Le forti mobilitazioni del fine settembre hanno stoppato questo tentativo, però la partita purtroppo rimane aperta, perché proprio continuando a incrociare questi due documenti, uno del 13 dicembre e l'altro del 10 di ottobre, rimane il dato che i siti rimangono candidati, papabili, e che c'è bisogno, comunque rimane il bisogno di 1.200.000 metri cubi di volumetrie per soddisfare il fabbisogno del bacino romano, che è città di Roma, città di Fiumicino e città di Ciampino. Sì, nel documento poi Sottile cita anche Roccasecca, la discarica di Roccasecca in provincia di Frosinone, che purtroppo pare per la quale lamenta il fatto che non sia riuscito a prenderne possesso per la forte opposizione delle autorità locali. Quindi vediamo come quando le autorità locali si oppongono veramente, non solamente a chiacchiere, come fanno per lo più quelli dei Castelli Romani e di Bracciano, questi piani demenziali si riescono a bloccare. Beh sì, abbiamo raccontato le feroci polemiche che per tutto l'anno passato ci sono state ad Albano Laziale proprio sulla questione dei rifiuti da Roma e l'assoluta disprezzo nell'effettuare un minimo di controllo rispetto a questa operazione da parte delle autorità competenti del comune di Albano, che hanno avallato e continuano a avallare, insomma, le peggiori politiche sullo smaltimento dei rifiuti e le peggiori gestioni criminali della discarica stessa, la discarica di Roncigliano, che insomma sta causando problemi molto gravi alla popolazione. torniamo in voce, prima di tutto vorremmo ringraziare i compagni della trasmissione latinoamericana che oggi ci hanno lasciato una buona mezz'ora in più per poter sforare e mettere tanta bella mondezza musicale come andrete a, continuerete a sentire per il resto della trasmissione. E allora facciamo un sunto rapido della situazione per quello che riguarda il futuro piano dei rifiuti di questa regione. Le richieste delle aziende del settore, il regalo natalizio che aspettano con ansia dalla giunta Zingaretti, in particolare prevede appunto la messa a regime degli impianti di incenerimento già esistenti, il raddoppio delle discariche già esistenti e future, contando le volumetrie necessarie, il rilancio del progetto industriale di impianti a biogas e poi insomma l'ultimo regalo, quello proprio più importante e anche più sbalorditivo, si punta in alto, si chiede una bella proroga per il 2020 al raggiungimento dell'obiettivo del 65% per la raccolta differenziata, e quindi ci pare proprio chiudere l'anno in bellezza e aspettare che la giunta Zingaretti faccia questo mega regalo di Natale a tutte queste aziende che in crisi non stanno veramente. Entriamo in voce perché abbiamo parlato finora di mondezza, ma come ben sappiamo la speculazione sul territorio, spesso le varie speculazioni sul territorio si connettono tra di loro, e quindi andiamo a parlare del territorio del Divino Amore. Il Divino Amore dove che è balzato alle cronache ultimamente, all'onore delle cronache ultimamente, perché lì da quelle parti su, nella zona della Falcognana si vuole aprire una discarica che è appunto la discarica della Falcognana, ampliando quella che è la discarica della Ecofer, la discarica di Carfluff. Ma in quella zona abbiamo visto degli strani fenomeni, come gente, come l'ex sindaco Palozzi, ora allegramente parcheggiato alla regione, opporsi al piano della discarica, nonostante lui si sia durante la sua amministrazione abbia in tutti i modi annientato la possibilità di avere una raccolta differenziata nel territorio di Marino, o abbia sostenuto in tutti i modi l'inceneritore. È stato molto bizzarro questo fatto che finalmente si sia interessato dell'ambiente di quella zona, ma tutto questo è strano. Sì, è strano perché proprio da parecchi anni il quadrante del Divino Amore della Falcognana è oggetto di una speculazione ancora sulla carta, fortunatamente, e ancora sui piani regolatori del Comune di Marino, che prevede svariati milioni di metri cubi di cemento per la realizzazione di edilizia residenziale. Ne abbiamo parlato nelle puntate passate, anche seguendo le mobilitazioni e le novità che questa speculazione portava con sé. Insomma, si è anche intersecata con appunto la vicenda della discarica della Falcognana, perché è una speculazione edilizia che dovrebbe sorgere nello stesso comprensorio dove si trova già la discarica della Ecofer e dove vorrebbero portare anche i rifiuti indifferenziati di Roma. Però insomma, da parecchio tempo il territorio di Marino è sotto attacco di una pesante speculazione edilizia che ha prodotto una cementificazione selvaggia di tutto il comprensorio, e questo nuovo progetto insomma non è stato accolto dalle popolazioni con ben volere, tant'è che insomma nel giro di ormai 2 anni almeno si è creata una mobilitazione proprio contro questa nuova cementificazione del territorio. E noi in questo momento siamo in collegamento proprio con un membro dell'assemblea contro la cementificazione di Marino, perché insomma ci sono delle novità interessanti e riguardano poi gli assetti finanziari e gli interessi che stanno passando attraverso proprio questa speculazione edilizia, che insomma, come poi magari ci racconti meglio te, Simone, ci senti? Sì, salve a tutti e a tutte quante. Ci racconterà insomma di come l'INPS sta cercando di entrare, non so se ci riuscirà, dentro appunto questa speculazione nel quadrante del Divino Amore. Se insomma ci fai un riepilogo e ci spieghi come avete scoperto questa vicenda un po' squallida, e sicuramente che danneggia le casse dell'INPS e quindi anche le nostre stesse tasche, visto insomma che si parla pure di una speculazione antieconomica insomma per l'INPS stessa. Sì, guarda, noi dell'Assemblea contro la cementificazione abbiamo scoperto questa squallida vicenda grazie ad un articolo del 4 dicembre scorso che è apparso sul Fatto Quotidiano a firma di Marco Palombi. Questo articolo ha portato alla luce l'esistenza di un articolo quadro firmato il 31 luglio del 2013 tra Luca Parnasi, in quanto presidente di Pars Italia, e Diego Village, che è la società che detiene, diciamo, la lottizzazione più cospicua all'interno del progetto di cementificazione contro cui ci stiamo battendo da circa 2 anni e mezzo. E da Antonio Mastrapasqua, in quanto presidente dell'INPS e di Idea Fimit, che è una società di gestione del risparmio che si occupa della gestione del patrimonio immobiliare dell'INPS. Questo accordo quadro prevede che proprio l'Idea Fimit, quindi l'INPS, debba entrare come socio di Pars Italia all'interno della società Eco Village in cambio della cessione per 65 milioni di euro di un palazzo di proprietà di Idea Fimit, quindi dell'INPS, che è ubicato in via Pinciani a Roma, attualmente in affitto alla provincia di Roma, a Pars Italia, nonostante tra l'altro la provincia di Roma abbia un'opzione preferenziale di acquisto su questo palazzo per 70 milioni di euro nel 2014, e oltre a questo il versamento da parte dell'INPS a Parsitalia di 26 milioni di euro, di cui 18 proprio direttamente alla banca IMI del gruppo Intesa San Paolo, che è quello che finanzia direttamente il progetto di cementificazione, e quindi una vicenda insomma dai connotati piuttosto squallidi, in quanto per entrare in un progetto di cementificazione di dubbia riuscita in un contesto di crisi del mercato edilizio, l'INPS va da una parte a svalutare il proprio patrimonio immobiliare e dall'altra a finanziare direttamente la rendita immobiliare con i soldi dei lavoratori. Sì, insomma, è evidente che insomma una grossissima contraddizione per questo ente previdenziale, che insomma dovrebbe fare tutt'altro e pensare a tutt'altro, e invece i suoi dirigenti investono come se fossero insomma dei manager dei grandi multinazionali. Poi non si capisce perché investono, però poi investono in una situazione che rischia seriamente di essere a perdere dal punto di vista economico, perché insomma non si parla mai del fatto che a parte il calo strutturale del mercato immobiliare in questo periodo, e poi anche i grossissimi rischi di ritrovarsi una grossa speculazione edilizia a ridosso della futura discarica di Roma, che nella vicenda non viene mai menzionata, che però insomma a me sembra che si tenti di fare una specie di comodo scarica barile sull'INPS. Accogliamo alle casse dell'INPS sta situazione che si sta mettendo veramente male, e cerchiamo di recuperare insomma attraverso insomma dei passaggi poco chiari di altro tipo di immobili. A me insomma questa è l'impressione, perché insomma su quella speculazione edilizia insomma delle ombre pesanti si sono addensate insomma o in un modo o in un altro. No, certo, poi certo, hai citato il caso della discarica della Falcognana, che incombe su tutta la vicenda, che fortunatamente ad oggi i lavori in corso del terzo invaso sono stati fermati dal Ministero dei Beni Culturali, ma insomma che rimane sempre come una spada di Damocle sul territorio, che si andrebbe ad aggiungere anche a questo progetto di cementificazione, che poi ricordiamolo è gigantesco, conta di circa 1 milione di metri cubi in un territorio dove già i servizi sono inesistenti, la situazione idrogeologica è compromessa, tra l'altro di un progetto cementificatorio di edilizia commerciale e residenziale, cioè ovvero solo di residenze private, di centri commerciali, quindi senza alcun servizio previsto per la popolazione presente e futura. Insomma, come abbiamo già visto poi a Marino, quello che è successo con le speculazioni in corso, che insomma hanno avuto questa pesantissima caratteristica di non avere nessun poi servizio di urbanizzazione associato, e insomma con tutte le conseguenze che si stanno vivendo proprio a causa di questo. Quindi insomma che Parnasi cerca di sfilarsi dall'affare limitando i danni, magari accollandogli all'INPS appunto, perché odora che lì la situazione della discarica si mette male, insomma non è poi uno scenario così improbabile, visto che insomma nei grandi palazzi del potere, dei salotti buoni qua dei palazzinari, le notizie girano penso in maniera un po' più chiara e veloce che rispetto a noi. No certo, e poi oltre a questo è proprio anche un tentativo di farsi finanziare il proprio progetto immobiliare da l'INPS, come del resto anche dal credito Allegro che a Parsitalia concedono le banche, perché chiaramente poi queste operazioni di speculazione Parsitalia, come tutte le società immobiliari, non le fanno certo con le proprie tasche. Senti, allora insomma se hai qualcos'altro da aggiungere, magari qualche appuntamento da ricordare, io ti ringrazio insomma per questa corrispondenza e magari ci risentiamo per qualche aggiornamento. Sì, no, guarda, prima di ricordare gli appuntamenti, poi vorrei anche sottolineare un altro fatto su questa storia, che all'interno dello stesso INPS si sta verificando uno scontro di potere tra il presidente Mastrapasqua e il direttore generale Nori, proprio su l'opportunità dal punto di vista economico per l'INPS di effettuare questa operazione, perché insomma viene contestata poi al presidente Mastrapasqua, che è uscito fuori come il più il più diretto sponsor di questa operazione è proprio una assoluta poca convenienza per l'INPS di effettuare questa operazione. E quindi... oltre a questo, guarda, noi attualmente sul territorio stiamo sia cercando di far uscire fuori questa storia qua, quindi facendo uscire fuori questa storia qua assolutamente scandalosa dal punto di vista economico, finanziario, ma anche etico, e poi stiamo cercando di rilanciare, diciamo, gli obiettivi di massima della vertenza, che sono quella della bonifica delle discariche, quindi anche riallacciandosi alle altre vertenze presenti sul territorio, quella di Roncigliano ma anche quella di Falcognana, sono quella dell'ampliamento del parco dell'Appia Antica, quella dello sblocco di fondi per gli scavi archeologici nella zona e poi quella della requisizione degli ettari di terreno privato sui quali è prevista la massiccia lottizzazione del Divino Amore. Ok, ok. E guarda, allora appunto ti ringraziamo, chiudiamo qui la corrispondenza e ci risentiamo prossimamente. Grazie a voi, a presto. Ciao, ciao. Ciao. E allora andiamo a chiudere questa corrispondenza e torniamo tra qualche minuto dopo un po' di ottima musica natalizia. Until Mr. Claus turned into Santa motherfucking right? of Lives Ever After, The End. E è finita insomma questa stupenda canzone, e torniamo in voce sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre 87.9, sempre 06 49 17 50 il numero di telefono per contattarci. E prima di continuare la trasmissione con la scaletta che ci eravamo prefissi, e parlando insomma di questa vicenda abbastanza poco divertente dello smog e dell'allarme smog nella città di Roma, ricordiamo il capodanno di Radio Onda Rossa, anche quest'anno capodanno 2014, ricordiamo le iniziative legate al capodanno. Alle ore 10.30 a Re Bibbia, invio a Ugo Maietti, angolo via Bartolo Longo, alle 10.30 presidio sonoro e l'intecchiata propiziatoria al carcere di Re Bibbia. E invece alle ore 24 al centro sociale Agrobax a via della Vasca Navale, capodanno con Radio Onda Rossa, concerto e selezioni musicali nelle altre sale. Costo dell'iniziativa della sera è di 6 euro, benefit per le spese legali del processo del 15 ottobre. E quindi insomma numerosi e numerose, recatevi al centro sociale Agrobax per sostenere Radio Onda Rossa e sostenere le spese legali del processo del 15 ottobre 2011. Allora insomma, dopo aver ricordato appunto l'appuntamento di capodanno, continuiamo appunto parlando della smog, allarme smog nella città di Roma. Sono ormai 3 settimane che le centraline della città di Roma registrano parametri per le polveri sottili superiori al consentito. Questo incremento delle segnalazioni, degli sforamenti, dei valori nelle centralini per le polveri sottili ha portato, ha costretto l'amministrazione comunale della città di Roma a intervenire attraverso l'utilizzo del sistema delle targhe alterne, sperando di abbassare la quantità delle polveri sottili presenti nell'aria. Quello delle targhe alterne è uno dei classici insomma sistemi che vengono messi in campo in queste situazioni, quando le centraline che rivelano lo smog insomma danno dei valori allarmanti. Però insomma in realtà questa storia delle centraline in teoria ha una legislazione e ha un funzionamento ben preciso, e molto spesso non si capisce bene proprio come giornali, televisioni e le stesse amministrazioni trattino l'argomento. Iniziamo col dire che una centralina insomma installata di rilevamento invia insomma i propri dati all'ARPA, e la legge vuole che durante un anno solare, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre, si contino il numero di volte che le centraline registrano parametri che sforano i valori consentiti. Se questi sforamenti nel corso dell'anno si arrivano a 35 volte di numero, l'amministrazione comunale dove queste centraline sono installate è costretta a spegnere le centraline. Bravissimo, questa è la risposta giusta. Spegnere centraline, cercare di taroccare i dati è sempre la prima opzione, quella insomma che è più gettonata. Che è stranamente esattamente quello che succede fuori dall'inceneritore di Acerra, dove le centraline ogni 35 giorni, tac, smettono di funzionare. Chissà perché 35 giorni è il numero magico delle centraline che rilevano gli inquinanti, perché insomma al 35esimo giorno bisogna intervenire. E infatti non è un caso che magari tutti gli interventi delle amministrazioni si concentrano nella parte finale dell'anno, perché è la parte in cui si accumulano i 35 giorni di sforamenti, senza lasciare il fatto che per il resto dell'anno non è che l'aria che hai respirato era di qualità oppure fosse entro i parametri. È soltanto che il 35esimo sforamento registrato, da quel momento in poi, per legge bisogna intervenire in qualche modo, e quindi anche, insomma, già a capire bene che, insomma, non è che il resto dell'anno la situazione era molto migliore. Se il 31 dicembre eri costretto a fare le targhe alterne, il 1 gennaio no, perché ricomincia a contare da zero. Un metodo che sicuramente non facilita e non aiuta invece, insomma, la popolazione che è costretta a vivere con un'aria irrespirabile, con le conseguenze immediate e a lungo termine che questo comporta, perché, insomma, anche le difficoltà di respirazione delle persone anziane in una città inquinata sono evidenti, insomma, fin da subito. E ci prendiamo un attimo una pausa e continuiamo tra qualche minuto. Quindi torniamo in diretta, perché qua l'atmosfera natalizia ci ha un po' ovviamente confusi. Qui il Santo Natale purtroppo si fa sentire anche nella redazione di Impatto. Per fortuna c'è una bionda figura che è venuta a portare ordine e delle buste di fritto, che adesso ci leggerà un comunicato che ci siamo dimenticati di leggere quando parlavamo del problema del nuovo piano rifiuti regionale. Io sono ben contenta di ritornare e, come sempre, mettere le pezze a tutto quello che vi dimenticate. Quindi leggiamo questo comunicato stampa bellissimo del coordinamento dei comitati rifiuti energia del Lazio, che titola: nuovo piano rifiuti Lazio, solo un elenco di impianti, mentre l'unica riduzione è quella della raccolta differenziata. Allora, il 13 dicembre la presenza del presidente del presidente della giunta regionale Zingaretti e dell'assessore dell'ambiente Civita è stato presentato uno studio redatto dalla Conservizi Lazio e finalizzato all'analisi della situazione della gestione dei rifiuti nel Lazio. Ricordiamo che la Conservizi è l'associazione regionale delle imprese e degli enti che gestiscono servizi pubblici locali. Ovviamente questo studio, che riteniamo essere la base per la costruzione del nuovo piano rifiuti del Lazio, necessita di un'analisi approfondita, ma da subito sentiamo il bisogno di manifestare la nostra contrarietà. Nulla di nulla infatti appare sulla riduzione a monte dei rifiuti, mentre la raccolta differenziata assieme alla riduzione, unica via per l'eliminazione di impianti nocivi dei nostri territori, resta al palo. Approfittando della sponda del ministro dell'ambiente Orlando, il raggiungimento della soglia minima di raccolta differenziata al 65% viene rimandato al 2020. Si programma un aumento del 5% l'anno circa di raccolta differenziata nella regione dal 2014, quando il patto per Roma firmato dal ministro Clini prevedeva il raggiungimento del 50% di raccolta differenziata a Roma nel 2014, quindi il 40% del 2013. Anche i muri sanno che Roma produce oltre il 50% dei rifiuti della regione. Un aumento del 10% a Roma produce oltre il 5% di aumento in tutto il Lazio. Si sta tentando di fatto di teorizzare lo stop alla differenziata nel resto del Lazio per almeno 2 anni? Oppure ci si arrende all'incapacità dell'AMA di mantenere gli impegni presi? E se non si agisce sulla differenziata, è evidente che nasce la necessità di impiantistica per il trattamento dell'indifferenziata, con condimento di discariche, impianti TMB e inceneritori. In questo contesto quindi si indica come necessario il riavvio dell'inceneritore di Malagrotta, basato su una tecnologia di fine anni 90, la necessità della terza linea di incenerimento a San Vittore, per un totale di oltre 300.000 tonnellate l'anno, e Malagrotta ne smaltisce 180.000 l'anno, il mantenimento delle 2 linee di incenerimento a Colleferro. Altro che risanamento della Valle Galeria o bonifica della Valle del Sacco. Quanto alle discariche, per adesso sembra che si voglia ampliare quelle esistenti nel Lazio, rimandando il problema di trovarne nuove a quando i tempi saranno migliori. Perciò Cupinoro, Falcognana, Inviolata, Roncigliano e tutte le altre del resto della regione costituiranno ancora l'opzione preferenziale di istituzioni che vogliono comuni e cittadini che non differenziano. Unico provvedimento su questo versante appare l'innalzamento del costo di conferimento mediante l'aumento del tributo speciale legato al raggiungimento o meno degli obiettivi comunali o di ATO. Questo aumento andrà a finire sulla TARES, o come si chiamerà, e quindi il costo della malagestione verrà direttamente attribuito ai cittadini contribuenti. E come appare dagli intendimenti della maggioranza di governo, la tariffa rifiuti sarà annacquata nel mare magnum della supertariffa comunale. Quindi non siamo in presenza di un piano, ma di una banale presa d'atto di quello che esiste, di una situazione di voluta difficoltà nel decollo della raccolta differenziata a cui non si sa ufficialmente far fronte. In questo contesto quindi si indica come necessario il riavvio dell'inceneritore di Malagrotta, la necessità della terza linea di incenerimento a San Vittore, come già detto, e ribadiamo il mantenimento delle 2 linee di incenerimento a Colleferro, e parliamo di oltre 200.000 tonnellate l'anno. Quindi ci si presenta al 2020, anno in cui l'Unione Europea prevede la fine dell'incenerimento di materie prime seconde, con poco meno di 700.000 tonnellate l'anno di capacità di incenerimento, a cui aggiungere le potenzialità dei cementifici. Addirittura con un surplus di impianti TMB per la produzione di CDR e CSS, figli dell'attuale emergenza e di un'incapacità di programmazione. In questo quadro sembra scomparire l'inceneritore di Albano, ma solo perché i numeri proposti non consentono la conferma di quella scelta. Infatti, anche se questo impianto dovesse realmente sparire dal piano, bisogna ricordare che la pratica di finanziamento del gassificatore giace ancora sospesa negli uffici del Ministero dello Sviluppo e i solerti tecnici ministeriali non vedono le ragioni dell'interruzione del regalo da mezzo miliardo di euro in certificati verdi promesso a Cerroni. Ricapitolando, nulla per la riduzione della produzione dei rifiuti, rallentamento e scarsi investimenti per la differenziata, assenza di impianti di selezione del materiale secco differenziato, assenza di riconversione al recupero di materie degli impianti TMB per la produzione, invece di CDR-CSS, con l'unico scopo di creare cibo per gli inceneritori e per i cementifici, mai citati nel documento, ma che sappiamo essere un'opzione assai concreta e ghiotta per le lobby dei cementieri. In ultimo, partendo dalla giusta necessità di impianti di compostaggio, si condisce questo minestrone infernale con impianti biogas nascosti dietro l'addizione compostaggio. Quello di Maccarese è il mega impianto biogas da 95.000 tonnellate l'anno, allocato genericamente su Roma e non più su Fiumicino. In sintesi, un piano senza progetto, oppure se lo si preferisce un piano che è una banale presa d'atto di quello che esiste, indirizzato ad un conto puramente economico e al soddisfacimento dei soliti interessi. Ma questo è un piano predisposto dalla Conservizi Lazio, quindi di scelta essenzialmente padronale, e perciò di salute e tutela dell'ambiente nessuna traccia. Le scelte virtuose sono forse rimandate al 2021. Di fronte a questo quadro di conservazione dei privilegi a favore degli interessi privati connessi al business dei rifiuti, di fronte alla politica di continuità dello sfruttamento del territorio e delle devastazioni ambientali, i comitati dei cittadini in lotta nel Lazio chiamano ad un maggiore indurimento delle mobilitazioni già in atto per la difesa dei territori e per ribadire che senza il coinvolgimento delle popolazioni della regione nessun piano rifiuti avrà diritto di cittadinanza. Coordinamento dei rifiuti dei comitati rifiuti energia del Lazio. Adesso mandiamo un piccolo stacchetto per farvi riposare le orecchie. Hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas day. Hey, hardcore bells, hardcore bells, hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas day. To rave on this here Christmas day. Hey, hardcore bells, hardcore bells, hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas day. Hardcore E ci delude molto non ricevere ringraziamenti, compiacimenti, laudi, plausi per la Hardcore Christmas Bell, che ormai è diventata la traccia must della puntata natalizia, quindi un po' delusi, va bene, insomma, ascoltatori, ci avete deluso, andiamo avanti e continuiamo parlando sempre di schifezze, direi che questa categoria si addice all'oggetto della nostra discussione. Sì, insomma, la scaletta prevedeva un accenno alle grandi opere utilizzando un articolo del Sole 24 Ore che si lamenta del fatto che in Italia tante grandi opere sono incompiute e un po' di soldi sono stati buttati all'aria, però tante opportunità sono state perse. E insomma, uno spottone. Sì, abbiamo un elenco fondamentalmente di opere bloccate che il Sole 24 Ore ci ricorda che per lo più trattasi di caserme, scuole, ospedali, strade regionali, quindi cose di questo tipo, in un elenco lungo 387 lavori al palo, di cui solamente 26 opere di interesse nazionale, quindi a occhio le grandi opere sono quelle che vengono fatte, si strascicano a lungo naturalmente per ottenere la maggior parte di finanziamenti, la maggior massa di finanziamenti possibile, ma sono cose che si portano avanti. Quelle che restano indietro sono appunto scuole, ospedali, strade regionali, queste cose di nessun interesse, di nessuna utilità pubblica. Sì, e il Sole 24 Ore ci fa un quadro, ci racconta che servirà un altro miliardo di finanziamenti più o meno complessivi per terminare queste opere, e pare che questo si otterrà dal definanziamento di interventi ormai superati, quindi di tutta quella roba che era stata ammucchiata, probabilmente cattedrali nel deserto che resteranno tali, mentre i soldi e le risorse verranno dirottate verso altri progetti. Bene, un clima natalizio come la giornata di oggi, insomma, di regali per opere mai compiute, ma siamo certi che i soldi da qualche parte sono andati a finire, si cerca insomma di fare un altro regalo e portare a termine almeno una attraverso insomma il definanziamento delle altre, ed è insomma abbastanza singolare come si cerchi sempre di raschiare questo fondo della contribuzione pubblica, perché poi insomma questa è tutta roba che viene finanziata attraverso poi alla fine le nostre tasche. Appunto abbiamo nel secchio dei finanziamenti pubblici, ricordiamo, abbiamo gli inceneritori, le centrali a biogas e biomasse di cui abbiamo parlato lungamente lungo questa puntata, che appartengono al novero della Green Economy, di cui avremmo dovuto parlare alla finale di questa trasmissione. Dato che abbiamo 5 minuti, credo che due chiacchiere vadano spese, dato che appunto è balzato all'onore delle cronache ultimamente proprio la Green Economy, a partire da un convegno alla Sapienza, a partire dal quale ci sono state anche cariche verso gli studenti che contestavano le figure istituzionali, la passerella che si teneva all'interno dell'aula magna. Sì, diciamo che le cariche alla Sapienza di una settimana fa, proprio a ridosso di questo convegno, poi sono state associate a livello mediatico al minestrone delle proteste dei forconi, e quindi insomma non si è ben capito il dato invece per cui si era scesi in piazza quella mattina, perché insomma la passerella istituzionale sosteneva delle ipotesi industriali abbastanza concrete che sono legate a quella che è questo nuovo settore cosiddetto Green Economy, che insomma stiamo cercando di spiegare ha invece tutte le caratteristiche nocive della passata economia, old economy. Sì, perché di green economy, parliamo di green economy, mettiamo in un unico sacco tante tecnologie differenti che abbiamo ad esempio il carbone pulito, che è una contraddizione in termini, le nuove centrali nucleari al torio, impianti a biogas e biomasse, che qua ci stanno tante antipatiche in questa trasmissione, inceneritori, insomma tutta una serie di tecnologie che tra di loro che hanno impatti differenti, caratteristiche differenti, tra di loro hanno veramente poco a che fare, se non quella di tentare di mantenere invariato l'attuale livello di produzione. Appunto si arriva a devastare le falde acquifere con opere di fracking, una tecnica di cui abbiamo parlato qualche trasmissione fa, in cui vengono fondamentalmente buttati degli acidi e dell'esplosivo all'interno delle falde acquifere per ottenere il gas di scisto, quindi il gas dalle sabbie e le sabbie bituminose, grattando proprio il fondo del barile di questo pianeta, tentando di distruggere ciò che è ancora da distruggere per far sopravvivere il sistema produttivo. E poi il petrolio che esce verde e non inquina. No, tutto. Voglia, come il carbone è pulito. Profumo di rose, che scherzi. No, poi tra l'altro c'è, cioè, un elemento di cui tener conto, e poi chiudiamo, sempre perché a Natale non possiamo smentirci, quindi chiudiamo in orario per lasciare spazio ai tappabuchi. Il fatto che questi convegni sulla green economy si tengano all'università ovviamente non è un caso, insomma già da anni all'università abbiamo cominciato a dover fronteggiare convegni di questo genere, che spaziano da, appunto, le discussioni e le tavole rotonde sulla gestione dei rifiuti nel Lazio, fino ad arrivare alle armi cibernetiche, perché ci sono dipartimenti della Sapienza che di questo si occupano, che spingono delle tecnologie, o dipartimenti come per esempio quelli di Tor Vergata, che sono quelli che fanno poi i carotaggi, le valutazioni. Quindi c'è una, diciamo, un filo rosso che lega l'imprenditoria zelante e l'accademia servile. Questo sempre per, diciamo, anche ricollocare l'università pubblica, perché di università pubblica si tratta, all'interno della, diciamo, del quadro, che è totalmente inserita a lezione, sicuramente a lezione di ingegneria ambientale. Ci dicono che gli impianti a biogas e biomasse vengono spinti come impianti meravigliosi tanto quanto quelli nucleari, quindi siamo in guardia anche da quello che ci propinano esperti, tecnici e anche professoroni vari, perché diciamo il legame degli interessi è bello ampio. E con questa pippa finale ricordiamo l'appuntamento del Capodanno 2014, odiamo il carcere, sempre e comunque. Allora, la giornata comincia dalla mattina, come ogni anno, alle ore 10:30, tutti e tutte al carcere di Rebibbia, in via Maietti, angolo con via Longo. Un bel presidio sonoro e lenticchiata propiziatoria, peraltro insomma possiamo dare un'anteprima, ci sarà anche una fantastica riffa per finanziare le spese legali di tutti i compagni e le compagne che hanno subito la repressione dopo il 15 ottobre, una riffa in cui si vincerà una fantastica bicicletta messa a giro dalla mitica ciclofficina del Macchia Rossa, quindi, e anche altri premi. Ci dicono qui dalla regia anche altri premi, però insomma la bicicletta fa gola, fa anche un po' hipster, però fa soprattutto gola. E quindi vi invitiamo ad acquistare i biglietti della riffa, che si troveranno in radio già da domani, e se no li potrete prendere al presidio. E poi dopo il presidio, magnata, pennichella, e ci si rivede tutti a mezzanotte ad Acrobax, in via della Vasca Navale 10, Capodanno con Radio Onda Rossa, concerto Vuoggiaggia, come si legge, ragazzi? Vuoggiaggia, scusate, sono un po' così fuori dal giro. E, ingresso 6 euro, chiaramente benefit per le spese legali del processo 15 ottobre 2011, quindi con impatto ci ridiamo l'appuntamento a prossimo lunedì 30, perché noi siamo a correre sotto le feste, comunque veniamo in radio perché se divertimo. E quindi niente, appuntamento a lunedì prossimo, sempre 17:30, sempre con impatto, e vi salutiamo con una chicca, che dici?